Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Cari ascoltatori, buongiorno. Benvenuti alla prima puntata di Fabbrica 2.4, il viaggio nell'industria che cambia, che Radio 24 vi proporrà da oggi in poi, ogni sabato alle 14 e ogni domenica alle 13. Il nostro obiettivo sarà di illuminare il cono d'ombra che i media e anche la politica riservano alla manifattura italiana. La manifattura o l'industria sono quello che qui in Italia particolarmente dà da mangiare a tutti. Eppure, per ignoranza, per volontà di distrazione, per fare audience, se ne parla pochissimo, se ne parla poco nei giornali, se ne parla poco in Parlamento. Noi ne parleremo molto, cercheremo di raccontarvela, di farvela capire, di dire come cambia, di illustrare le vicende degli imprenditori, dei ricercatori, degli operai, dei sindacalisti, tutto quello che riguarda l'industria. Vorrei darvi qualche dato su come sta andando l'industria in Italia. L'andamento dell'industria è parallelo a quello del PIL. Nel primo semestre del 2015 l'Istat ha segnalato che il PIL dell'Italia ha fatto un più 0,4%. L'andamento dell'industria anche segna un più 0,4%. Quindi una modestissima ripresa che è ben lontana da farci recuperare quel 25% di capacità produttiva che l'Italia ha perso in questi anni della crisi. Ricordiamo che il manifatturiero valeva il 21% del PIL, oggi vale il 16% del PIL, è stato perso un 25%, ma per recuperare un 25% bisogna crescere del 34%. Sarà lunga e sarà dura, ma almeno abbiamo toccato il pavimento della caduta e oltre questo molto probabilmente non si può andare. In questi giorni, per quanto riguarda l'industria, c'è stata una notizia positiva che ha sorpreso tutti, e cioè l'impennata della produzione di auto, pari addirittura a un più 44,2%, un'impennata che si spiega soprattutto con le nuove produzioni che FCA ha fatto a Melfi, la Fiat 500X e la Jeep Renegade, ma anche con gli acquisti di auto. Addirittura c'è stato un incremento della domanda interna di veicoli del 14,54%, cioè quasi il 15% degli italiani si è fatto la macchina nuova. L'intero settore dei mezzi di trasporto è cresciuto del 13,9%. Se la guardiamo in prospettiva, anche lì c'è poco da esultare, perché solo pochi anni fa l'Italia faceva un milione e mezzo di autoveicoli e qui stiamo parlando di poco più di 500.000 veicoli. Comunque, nella situazione attuale è un bel segno. Anzi, la crescita dell'industria dello 0,4% è trainata soprattutto dal settore automotive, mentre invece ciò che butta giù la media sono le costruzioni che stanno andando ancora malissimo. Il settore dell'automotive è importante in Italia soprattutto per i componentisti. I componentisti che stanno andando ancora meglio della vendita e della produzione di auto in sé per sé sono un'eccellenza che noi abbiamo nel mondo, che viene trainata non tanto da Fiat ma anche dai produttori europei e mondiali che aumentano la loro domanda di componenti italiani. C'era addirittura chi stimava che dentro le auto tedesche, che hanno una produzione pari a 5-6 volte quella italiana, ci sia quasi un 10% d'Italia grazie ai componentisti. E l'argomento sicuramente sarà oggetto delle prossime puntate. Oggi però invece si parla di chimica, e in particolar modo di biochimica. Il nostro interlocutore, Katia Bastioli, è sia una manager e sia una scienziata. È amministratore delegato di Novamont, presidente di Terna, e al tempo stesso è primo inventore di circa 100 brevetti e domande di predetti. Katia Bastioli è un protagonista della manifattura chimica, della fabbrica chimica, e ci interessa parlare con lei non solo per il caso di successo rappresentato dalla sua industria, la Novamont appunto, ma anche perché lei e i suoi collaboratori hanno innovato il modo di fare fabbrica in Italia e nel mondo con concetti che lei stessa fra poco ci spiegherà, come ad esempio la bioraffineria. Vorrei dire qualche parola sulla Novamont prima di passare la parola a lei. La Novamont è una società che è nata da uno spin-off dalla vecchia Montedison e ha un giro d'affari di circa 150 milioni di euro ed è nota al grande pubblico per un prodotto molto particolare, e cioè i sacchetti, tra virgolette, ecologici per fare la spesa. Quei sacchetti che adesso sono obbligatori dappertutto perché i vecchi shopping bag in plastica sono diventati illegali, fatti. E i sacchetti della Novamont sono fatti con un materiale inorganico e completamente biodegradabile che praticamente minimizza i danni all'ambiente, perché i vecchi sacchetti di plastica ci voleva quasi 100 anni prima che si sciogliessero. Ecco, il materiale alla base di quei sacchetti è il Mater B, che è fatto dall'amido di mais e serve per una serie di usi come i piatti, i bicchieri, le posate, i teli per la paccianatura, perfino i consumabili dei pneumatici. Il caso di Novamont ci interessa perché dimostra come in alcune circostanze la sostenibilità non sia solo una questione ambientale, una questione o una questione etica, ma anche un modo per fare del business che funziona e che crea valore per i propri azionisti. Tant'è che dopo un inizio con alcuni fondi di investimento, alcune banche tra gli azionisti di Novamont, poi è entrato l'ENI attraverso la sua controllata Versalis, che è anche la maggiore azienda che c'è in Italia, perché le opportunità di creazione valore erano enormi. E sta succedendo che non solo il nuovo azionista porta risorse all'azienda controllata, ma l'azienda controllata sta in qualche modo fertilizzando il nuovo azionista, consentendogli di fare nuovi business e di riorganizzare la sua produzione secondo nuovi modelli. Il payoff di Novamont è chimica vivente, energia per la vita. Tra l'altro Novamont è anche interessante per i significativi investimenti che fa in ricerca e sviluppo. Tutti gli utili, almeno così è stato fino all'acquisizione da parte di Eni della maggior parte delle azioni, poi vedremo dopo, ce lo dirà la dottoressa, vengono reinvestiti in ricerca e sviluppo. Oltre il 25% del personale che lavora in questa azienda è impiegato in ricerca e sviluppo. E gli investimenti in ricerca e sviluppo della società negli ultimi 3 anni sono aumentati del 62%, con un aumento del 46% del personale dedicato alle attività di ricerca e sviluppo. Ora, come prima domanda, prima di arrivare a parlare dello specifico di Novamont, io vorrei chiedere alla dottoressa Bastioli che cos'è una bioraffineria o una raffineria di terza generazione, perché nonostante io mi occupi di questa azienda, l'abbia anche citata in un mio libro, che cos'è esattamente una bioraffineria non l'ho capito. La bioraffineria che noi chiamiamo di terza generazione è il partire da materie prime rinnovabili innanzitutto, ma non per fare energia, ma per fare prodotti, bioprodotti a medio o alto valore aggiunto, utilizzando le risorse rinnovabili per quindi una marginalità significativa, utilizzando per l'energia soltanto ciò che rimane alla fine dell'utilizzo di queste materie prime. Inoltre la logica della bioraffineria integrata di terza generazione è quella di cercare di collegare l'unità di produzione con il territorio e quindi utilizzare materie prime, scarti che sono presenti sul territorio rispettando la biodiversità locale. Inoltre cercare di utilizzare terreni marginali e siti deindustrializzati, integrare tecnologie innovative a monte in modo tale da rendere economicamente sempre più efficiente la produzione man mano che ci sono nuove tecnologie che si integrano e inoltre, essendo una realtà locale, deve poter interagire con gli interlocutori locali, quindi con il mondo agricolo, industriale, accademico, istituzionale, in modo tale da essere un pilastro del nuovo sviluppo. Quindi non è vera l'obiezione che sento spesso dire quando si parla di voi, e cioè che per fare questo materiale e anche questi sacchetti, che sono il prodotto più noto, si spende una tale quantità di energia per cui poi l'equilibrio ambientale alla fine sarebbe negativo. È una sciocchezza. No, è una sciocchezza, certamente una sciocchezza, non solo, ma diciamo che non avrebbe senso. Sono 25 anni di attività di ricerca e innovazione che abbiamo messo in cantiere e ovviamente la sfida non è quella di fare prodotti che siano più impattanti di quelli tradizionali, altrimenti non avrebbe senso. L'idea è proprio quella di fare prodotti, tra l'altro, che si migliorano continuamente, quindi è un moving target continuo, e chiaramente l'obiettivo è quello di diminuire ogni volta che si aggiunge una tecnologia. Nella Mater B oggi rappresenta quello che sul mercato è di seconda, la chiamiamo di seconda generazione, è pronta la terza generazione con la partenza dell'impianto matrica di Porto Torres, e la quarta generazione ci sarà il prossimo anno con un nuovo impianto che arriva in produzione. Cosa significa? Che all'interno di quel sacchetto che noi tocchiamo, negli anni abbiamo sostituito materie prime che prima compravamo magari in giro per il mondo con materie prime prodotte localmente in Italia, in siti deindustrializzati, con tecnologie prima al mondo che permettono quindi di fare sia l'intermedio che poi utilizziamo per le bioplastiche e di aprire nuove opportunità in un sistema di innovazione continua che crea ponti e che quindi fertilizza anche il territorio, partendo appunto da queste tecnologie innovative e mettendo a sistema le competenze, la cultura del territorio. Ecco, ma gli shopping bag in plastica ormai sono proibiti quasi ovunque. All'estero con che cosa li sostituiscono? Tante volte immagino con cose prodotte da voi, ma siccome voi non siete monopolisti, quali sono le altre soluzioni che consentono di rispettare l'ambiente e anche di risolvere il problema di trasportare la spesa? Allora, innanzitutto lo shopper in Italia appunto deve essere biodegradabile e viene in un sistema abbastanza interessante, che è quello di poter riutilizzare il sacco per la raccolta del rifiuto organico, e quindi in una sola operazione si risolvono due problemi. Da un lato si dà un valore a un prodotto che in passato è stato al centro di tanti problemi di abbandono eccetera, dall'altra si risolve, si migliora la raccolta differenziata del rifiuto organico, che è un prodotto meraviglioso, è un driver della fertilità dei suoli magnifico, ma se messo a discarica è un grave problema ambientale, economico per tutti i cittadini, quindi e non solo, ma sviluppa una grande quantità di CO2. Quindi il modello italiano è un modello molto interessante che peraltro ha dato vita anche a una discussione europea e che ha portato poi alla direttiva europea sullo shopper, che è passata definitivamente quest'anno al Parlamento la prima parte dell'anno, e che praticamente porterà tutti i paesi europei entro 18 mesi dall'approvazione appunto di questa direttiva a normare il problema dello shopper. Le soluzioni sono diverse, ci sono appunto l'Italia che ha preso questa direzione recentemente. Ci sono le buste di carta che si vedono in America, che la gente le porta abbracciandole. La carta va bene anche per l'Italia, nel senso che l'Italia parla di sacchi non soltanto biodegradabili in bioplastica, ma possono essere anche sacchi di carta, cioè tutto ciò che biodegrada secondo la norma EN 13432 all'interno di un impianto di compostaggio. Quindi diciamo ci sono tutte le opzioni possibili. C'è anche la possibilità in Italia di utilizzare la grande sporta riutilizzabile molte volte, e peraltro l'abitudine esatto, quindi gli italiani stanno andando in quella direzione, e quando servono sacchetti per il rifiuto organico prendono anche il sacchettino per asporto merci, che è biodegradabile, in un modello che sta dimostrando di essere molto virtuoso e che migliora anche la qualità, certo, del rifiuto organico. Ecco, la devo interrompere per una pausa di pubblicità, ci risentiamo fra qualche minuto. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Fabbrica 2.4. Benvenuti di nuovo a Fabbrica 2.4, siamo ancora in linea con la dottoressa Katia Bastioli di Novamont, che ci sta parlando del nuovo concetto di fare fabbrica che si sta affermando nel settore chimico grazie alle loro innovazioni. Ecco, abbiamo parlato finora del Mater B, oltre a questo voi avete sulla rampa di lancio anche altri prodotti di tipo diverso? Sì, il concetto è sempre quello a cui ci ispiriamo quando sviluppiamo applicazioni con il Mater B. Il concetto è quello di avere prodotti che servano a risolvere, a ripensare interi sistemi, e quindi le bioplastiche biodegradabili nel campo della raccolta del rifiuto alimentare, ma per esempio anche nel campo della biolubrificazione o i bioerbicidi. o prodotti che abbiano caratteristiche, performance molto, molto, molto elevate per la conservazione dei cibi. Quindi, oppure tutto ciò che viene dalle filiere agricole che stiamo cercando di sviluppare e che in futuro daranno alimentazione alle nostre bioraffinerie, ma contemporaneamente saranno in grado di dare proteine, per esempio, per l'alimentazione animale, tenendo conto che l'Europa importa l'80% di proteine e uno dei tre cardini della legge europea, della direttiva europea per l'agricoltura, parla appunto della necessità di indipendenza dell'Europa da questo punto di vista. Ecco, ma c'è un prodotto nuovo che avete appena lanciato, che state per lanciare, che ha un nome e un cognome del quale si può parlare? Ma guardi, noi nella famiglia di Mater B abbiamo in realtà una grande quantità di prodotti. L'ultimo della serie è quello che abbiamo inserito per la prima volta in Expo e in questo momento è utilizzato da Italy. Tutti i ristoranti Italy utilizzano questi prodotti e sono i primi piatti biodegradabili e compostabili, resistenti alla temperatura e insieme alle posate, che hanno la stessa caratteristica di altissima resistenza alla temperatura. Quindi prodotti che somigliano a plastiche tradizionali in tutto, anche dal punto di vista delle performance, che però sono in grado di biodegradare come la buccia di mela in un ciclo di compostaggio. Ecco, ma a livello invece meramente economico, Novamont si è data dei target di crescita? Beh, certamente sì, tenga conto che noi in questo momento, oltre alle attività di Novamont in senso stretto, abbiamo creato la joint venture con Universalis Matrica al 50%, che sta incominciando a mettere sul mercato prodotti fortemente innovativi con appunto grandi opportunità di crescita. Dall'altra parte abbiamo creato Mater Biotech, che è un impianto in Veneto, anche qui una riconversione di un sito deindustrializzato, che speriamo il prossimo anno di riuscire a portare in produzione con 30.000 tonnellate di biobutandiolo, che serve alle bioplastiche ma serve a tantissime altre attività nel campo chimico. Quindi quello che stiamo facendo è di portare in Italia e in Europa nuovi processi e nuove materie prime, prima non disponibili, vedi l'acido azelaico e l'acido pelargonico di Matrica, per esempio, che permettono anche di integrarsi con altre realtà chimiche sul territorio e aziende di trasformazione, e che quindi possono dare grandi opportunità per avere prodotti a più basso impatto, connessi, interconnessi, e non solo, ma creando filiere lunghe, sempre più lunghe, che permettono di reindustrializzare. È molto interessante, però dal punto di vista finanziario, ovviamente voi non siete obbligati a dirlo perché non siete quotati, però voi adesso siete un'azienda di circa 150 milioni di euro, possiamo dire che magari fra 5 anni diventerete un'azienda di X milioni di euro? Non abbiamo mai dato all'esterno questo tipo di informazioni, ma già queste due imprese, Matrica e Mater Biotech, con la piena implementazione appunto delle due attività, cioè quando saremo a regime, porteremo a casa altre qualcosa vicino ai 200 milioni tra l'una e l'altra. Quindi il sistema che stiamo mettendo insieme sta da un lato portando avanti il business corrente di Novamont con la sua crescita, il suo sviluppo in Italia, in Europa, e dall'altra parte stiamo portando invece, creando nuove imprese, nuove produzioni che devono ancora, una sta partendo e un'altra dovrà partire il prossimo anno, ma ne stiamo pensando delle altre estremamente interessanti, ancora più innovative. Il concetto è che abbiamo creato una piattaforma di innovazione che è capace di andare sempre più rapidamente nella generazione di tecnologie, e siccome sono integrate con produzioni esistenti diventano sempre meno rischiose, perché sono basate su dei basamenti abbastanza solidi, e l'innovazione interdisciplinare con anche la formazione di persone con caratteristiche idonee ci permette di essere molto rapidi nella ricerca e nel passaggio dalla ricerca all'industrializzazione. Ecco, purtroppo il tempo è un po' tiranno, quindi siamo all'ultima domanda, che va un po' oltre i confini di questa trasmissione, ma a me incuriosisce particolarmente, e penso anche ai nostri ascoltatori. Ora, lei è una delle donne manager, nonché scienziate, di maggior successo che ci sono in Italia. Eppure si nota che a proposito del tema quote rosa, quote femminili, eccetera, anche se lei ha fatto altre dichiarazioni su altri temi importanti, non ci sono sue dichiarazioni a questo proposito. A mio personale avviso ciò è un bene, perché oggi le donne arrivano dove vogliono come gli uomini e le quote rosa rischiano di essere un sistema antimeritocratico e che potrebbe creare delle professioniste delle quote rosa, e anzi se ne vedono parecchie di queste. Ora, io volevo sapere se lei ha questo stesso pensiero oppure se l'assenza di sue dichiarazioni in merito è solo un caso oppure qualcosa di cui noi non ci siamo accorti. Allora, un tema delicato per me. Io sono stata sempre violentemente convinta che l'unica regola fondamentale, sono due le regole fondamentali, l'accesso all'educazione per tutti da un lato e dall'altra la meritocrazia come base di selezione. Quindi che siano uomini o siano donne, se io scelgo attraverso delle quote persone che possono coprire quel ruolo non bene per una quota, chiaramente faccio un'ingiustizia, che poi sia per gli uomini o per le donne poco importa, è un'ingiustizia al sistema, perché se non selezioniamo bene le persone, questo è un problema molto grande. E poi le donne ne hanno bisogno oggi? Dipende, io credo, almeno devo dire che io non sono la persona più giusta per rispondere a questa cosa, perché io non faccio molto testo, nel senso che io sono molto concentrata nei progetti che sto portando avanti e mi dimentico spesso del fatto di donne, uomini, eccetera. Ecco, quindi se ne dimentica migliore. Perché non è importante, però finisca il ragionamento che stava facendo, che ci interessa. Ma insomma, io credo che il merito è la cosa fondamentale. Ovviamente le donne oggi possono, proprio perché hanno un livello di scolarità molto elevata, possono fare tutto quello che fanno gli uomini e anche di più. Infatti. Non solo, ma se la meritocrazia funziona, sicuramente avremo metà uomini e metà donne, magari anche più donne. Quindi il concetto del merito credo che premierebbe molto le donne, e l'importante è che ci siano le donne migliori, non le donne perché bisogna riempire per forza un certo numero. Detto questo, dico che invece ci sono delle cose terribili che succedono alle donne in altri mondi, e lì invece la nostra responsabilità di dare delle risposte e un aiuto in quella direzione è fondamentale, perché tutti abbiano accesso, donne, uomini, bianchi, neri, blu, eccetera, all'educazione, alla crescita, e perché soltanto con l'educazione e la formazione noi possiamo vincere i disastri che stiamo vedendo intorno a noi. Certo, la ringrazio, mi auguro che in futuro torneremo ad averla come nostra ospite. Finisce qui la prima puntata di Fabrica 2.4, Viaggio nell'industria che cambia. Domani avremo come ospite Valerio Battista, che è l'amministratore delegato, l'artefice di Prysmian, leader mondiale nei cavi e nei sistemi per le telecomunicazioni e l'energia, che sono forse l'unico settore nel quale l'Italia ha conservato un primato mondiale. Arrivederci, a domani.